Eccoci qua, cari amici di Radio Big World, cari amici che più o meno state viaggiando con i nostri occhi e con le nostre esperienze alla ricerca dell'isola di Wight. Sì, perché la domanda resta quella: ma dov'è l'isola di Wight? E oggi ho anche un'altra domanda: ma dov'è il mio socio? Non è qui con me, mi sono addormentato in camera, nella nuova camera di questo lungo viaggio. Sì, perché abbiamo lasciato Bristol stamani mattina, abbiamo salutato quella città e ci siamo spostati di pochissimo, un brevissimo viaggio in treno verso un posto che ci è stato consigliato caldamente, in quanto dicono sia uno dei posti più belli di questa zona da visitare. E siamo dunque arrivati a Bath Spa. Spa che non è società per azioni, ma dovete sapere che questa cittadina presenta addirittura delle antichissime terme romane, e Spa sta appunto per quello, indica questo. Io non lo sapevo, non sapevo cosa c'era qua e l'ho scoperto in questo momento, come ho scoperto che addirittura questo luogo è patrimonio UNESCO, quindi addirittura siamo finiti in un posto di questa caratura, chi l'avrebbe mai detto? Ma insomma, la cosa che ho notato appena siamo arrivati, essendo che siamo qui effettivamente da pochissime ore, è stato il fatto che questa città si presenta, a mio punto di vista, con due occhi, ovvero arrivati alla stazione ci siamo un po' incamminati lungo il fiume Avon, che era lo stesso fiume che lambisce Bristol e che presenta una situazione prettamente turistica, ovvero localini assolutamente spersonalizzati, assolutamente poco inglesi e conformi a come sono un po' i localini e i caffè in tutta Europa. Un'altra cosa che abbiamo notato è che questo già da Bristol ci sono moltissime caffetterie, come già i ragazzi italiani che abbiamo incontrato in questi giorni ci hanno confermato. Abbiamo incontrato una ragazza italiana di Bergamo che vive a Bristol o comunque nel Regno Unito da 6 anni, che ci ha confermato che una volta, quindi 6 anni fa almeno, a Bristol perlomeno, oppure nell'Inghilterra che lei ha visitato, c'erano molte più pub ad esempio e molte poche caffetterie. E invece una cosa che noi stiamo notando è che l'Inghilterra si sta riempiendo di caffetterie e si sta svuotando di pub tipici. Insomma, un bel cambiamento per chi pensa all'Inghilterra old style. E insomma, dicevamo, siamo arrivati a Bath e subito l'impressione è che questa città abbia due volti: quella appunto per il turista con il trombettista che canta e suona in un angolo, il chitarrista che canta e suona davanti alla bellissima abbazia di Bath, che consiglio vivamente di visitare, e il sassofonista che suona 5 metri più in là. Insomma, un brulicare di artisti di strada accanto ai tavolini dei caffè, appunto accanto alle pizzerie, accanto ai localini, accanto ai locali di souvenir, cosa che è differente da Bristol, locali di souvenir. Questo posto ne è pieno, noi in poche ore ne abbiamo visitati almeno 3 o 4, compreso locali che vendono le cartoline, ad esempio, cosa che a Bristol non c'è stata o modo di trovare. Ora, in effetti, Bristol sarà una città più grande, quindi magari solo un caso non ci ha portato di fronte a certi tipi di locali, che però ci sono, io non lo so. Però la nostra impressione è che proprio quei locali non ci siano. E insomma, questa è una parte di Bath. L'altra parte di Bath è poco distante, 2 passi, perché comunque la città è molto piccola, e ti addentri in delle viuzze strane, molto piccole, molto strette, piene di locali, ma prettamente inglesi, a partire dalla sandwicheria, che conio forse in questo momento come termine, per finire al pub, tipicamente inglese, proprio non si scappa, è come la regina comanda. E quindi basta effettivamente, se vi capiterà di venire in questi posti, fare dei passi in più rispetto al classicissimo girettino del turista, che vi troverete in una città che vi sembrerà completamente diversa. Ma insomma, una cosa da notare che è stata vissuta ieri a Bristol e che ci teniamo a sottolineare è che, ad esempio, la ragazza che prima ho citato di Bergamo, che da 6 anni vive in Inghilterra, era eccessivamente preoccupata per il discorso della Brexit e infatti stava paventando l'idea di tornarsene in Italia quando questa sarà attiva, perché ci spiegava lei: mi chiederanno un visto, mi chiederanno dei soldi, mi faranno pagare delle tasse più alte e non solo, io sono qua che sgobbo e fatico per loro che sono là, che belli belli se ne stanno tutto il giorno senza fare niente. E quello mi ritorna alla mente il discorso di tanti che ci provano, di tanti che magari fanno una bella esperienza giovanile di uscire di casa e di andarsene. Però sostanzialmente quello che è abbastanza risaputo, almeno così sembra, è che da queste parti di mondo chi viene a lavorare e non è dei sua, ma chiunque sia italiano, francese oppure di qualunque altra nazionalità, viene visto proprio come una scimmia che appunto è buona solo a lavorare da sfruttare. E poi una cosa anche che abbiamo notato è che gli italiani che vivono e lavorano, almeno quelli che abbiamo visto noi a Bristol, non solo questa ragazza, ne abbiamo visti altri, e non solo Mariella, che ancora saluto, la nostra mitica concierge del ostello pub che ci ospitava appunto a Bristol, non solo questi insomma che vi ho citato, che abbiamo visto, tutti chiedono se noi siamo in visita o se siamo per lavoro e cambiano atteggiamento. Questa è una cosa che ha notato il mio socio: cambiano atteggiamento in base alla risposta, come se fossero schifati da chi viene in vacanza e come se fossero, sentissero una sorta di fratellanza nei confronti di chi invece magari se la passa più o meno come loro per il fatto che sono nel Regno Unito a lavorare. Ma insomma, bando alle ciance, questa BAT ha da essere visitata e da essere vissuta by night, visto che adesso è il momento cruciale nella giornata inglese, ovvero sono le 5 del pomeriggio e è l'ora del tè. Quindi io uscirò, andrò a cercare il mio socio che non so dove diavolo si sia sistemato e andremo a berci un buon tè con i biscotti, ovviamente senza dimenticarsi che tutto questo continuerà ancora per un po', perché non scordiamocelo, il focus resta quello: ma dov'è l'isola di Wight? Viaggiate con noi, viaggiate con i nostri occhi sulle frequenze di Radio Big World. Un caro saluto e alla prossima città. Peppe noi l'isola.